Sito! Sito su 36.000 metri quadri! Incredibile! 307 voli giornalieri internazionali e internazionali! E i bambini si annoiano! No! Fai volare la fantasia! Falli visitare l'aereo! Sì! Porti perché un sorriso per il tuo bambino non ha prezzo! Live and Direct per la 12ª puntata di Underground Pusher. Al microfono 1 Nino Stereo, al microfono 2 ai comandi e all'artigianato, lo vedo già pronto con le sue manine, Gigi Proiettili. Bella raga. Puntata di app numero 12 complessivamente, puntata dedicata agli Onyx. Questa puntata è particolare perché è la puntata record, non abbiamo mai iniziato così tardi rispetto all'orario prefissato. Purtroppo è un programma radio perché se no vi avremmo fatto vedere la foto che ho dovuto affrontare. Era tutto al centro di Arese, cioè a 3 km da casa mia. E niente, sono stato fermo in rotonda un quarto d'ora condividendo questo momento. La puntata di oggi è dedicata agli Onyx. Noi come sempre mettiamo due pezzi italiani appena usciti. Il primo è doveroso perché è fatto da due amici, è rappato da Docma e prodotto da Pulsar, si intitola Lascio Tutto. Docma è messinese, sostanzialmente ha vissuto gli ultimi 7 anni qui a Milano, dopo appunto questi 7 anni ha deciso di tornare indietro, di tornare in Sicilia, e ha lasciato appunto questo pezzo appunto che racchiude questi 7 anni di esperienza. Lascio tutto, 7 anni in 7 giorni, cestino fogli insieme a tutti i sogni. Io lascio tutto, ma tenga aperti gli occhi, mi godrò tramonte e orizzonti sugli scogli. Io ho avuto le visioni, lascio tutto adesso, la città la odio da un pezzo, ho provato a stare ma non ci riesco. Ho sopportato l'appartamento senza orientamento, con tutto quel cemento senza un segmento che permette di tenere alto il mento. Senza cibo fresco, al supermercato ero onesto, compravo un litro di latte e rubavo il formaggio e il pesto, ma adesso lascio anche lo spaccio, liberi piedi, scarpe senza laccio, a piedi nudi come un selvaggio. Creerò il mio spazio in città, mi sentivo limitato e odiavo il mio andazzo. Sembra a cazzo disperso, palazzo dopo palazzo, perdevo ogni desiderio, ogni pulsione. Lascio tutto per ritrovare il mio cuore, l'emozione della fatica nei campi, gocce di sudore. Vero, non voglio fare il fannullone, mi dispiace amore, ci lasciamo anche noi. Vivi libere, vola più in alto degli avvoltoi, mentre voi amici miei starete sulla pelle come Ney, sempre nei pensieri miei. Io lascio tutto perché cerco pace, colgo il frutto del mio male. Io lascio tutto, troverò la pace, conviverò con tutto, anche col mio male. Io lascio tutto perché cerco pace, colgo il frutto del mio male. Io lascio tutto, troverò la pace, conviverò con tutto, anche col mio male. Quando i sentimenti si fanno pesanti, lasci tutto indietro, resti a contare i danni, gli affanni, tutti i grammi. Ma adesso vita dammi qualcosa di vero con cui distrarmi, voglio ricrearmi tutto, lascio tutto, anche i drammi che ho visto negli anni a Milano, negli anfratti, gli stupri, gli sgomberi, gli sbirri con le armi. Devo calmarmi mentre rivivo momenti come filmati in testa dei cifrati, tra i passanti che nulla sanno, tra i matti che tutto fanno, bistrattati e lasciati nel fango, ma sanno che si rialza solo che è caduto come il danno. Io ho deciso che zappo, ma rappo non smetto, per i miei amici che porto nel petto, connetto il mio estro con l'albero maestro. Lascio tutto da questa merda, io me ne esco. Ciao ciao. questo era Lascio tutto di Dogma, un pezzo che io ho apprezzato tantissimissimissimo, personalmente mi è piaciuto davvero molto, perché è veramente un bello storytelling che racconta insomma anche dei propri sentimenti e del proprio vissuto, insomma non è facile sintetizzare tutta una serie di esperienze in pochi minuti. Quindi secondo me ha spaccato, anche perché diciamo in questo periodo non c'è tantissimo storytelling parlando di rap italiano, quindi mi è piaciuto molto. E poi la produzione di Pulsar è perfetta, perché insomma si sono accordati bene produzione e rap. E mentre invece il prossimo pezzo che abbiamo scelto è un pezzo di un rapper famosissimo che è Ensi. Il pezzo si chiama Specialist, è l'ultima uscita di Ensi prodotta da Jamie Tides. Un'altra volta, fra, ogni volta è meglio dell'altra volta, lascio sti rapper con le mani in mano, c'è un'altra volta, ascolta, fra, la logica dei numeri qui conta, ma mostra più soldi perché in mano, frate, lì si conta, vengo dal booster, l'ho già detto, se non lo sapevi, pure io stavo nel band, o come si chiamava ieri, mio fratello scava il sample, trova l'oro, chiama i veri, scendo il flow come il pane nel cestello dai quartieri. Accarezzi i tuoi cani, sorrida i velox, entro e vi rovino la festa, cani e con Taylor. Non dico quello che penso, io dico il vero. Se vi offendete, cazzo volete, pure il papa gli hater. Ci vedi un disman, è solo un po' di fitness, fra serpenti che bisbigliano sul business. Riportiamo l'attenzione sul latte, che vi porto questa merda su Marte, poi traduci in carte. Sembra che sto spalmando la Nutella. She's real. Yeah. Vorrei entrare qua, ma invece... E oggi è... Trasforma il verde in oro, 4,20 fra... Nel cocco la mista, rollo smoking non risla. Scrollo su Insta, un po' lo fa il giornalista. Mi scrollo la minchia con questi gossip del rap. Chiamami solo se si riuniscono i dogo e cosang. E lascia a me questa rap shit, forse è meglio che smetti. Non lo so, resta a casa, fra, finisciti Netflix. Sono in classic e lascio in cenere gli MCs. Quando nessuno mi assomiglia faccio genere ANSI. Ho sputato dei diamanti, ancora non ho fatto l'oro. Ma i bastardi che mi pompano qua sanno il fatto loro. Va giù il padel, va giù il tetto, fanno il core. A parte un paio in questa merda, giuro, fra, mi sento solo. Non ho mai sopportato quella musica elettronica. Da ragazzino io volevo entrare in area cronica. Mica dentro una playlist, lingue lunghe kiss. Fiumi di parole, no giallis, flow specialist. Ah yeah, flow specialist. Ci siamo pompati tantissimo, perlomeno io mi sono pompato tantissimo. Gigi era più chillato, ma mi è sembrato che gli piacessero le vibre, anche la produzione di Jam. E passiamo subito quindi al piatto forte, dopo quindi l'antipasto, passiamo subito agli Onyx, come di consueto da un po' di puntate. Partiamo subito col botto, col singolo simbolo degli Onyx, Slam. Rush roulette, waiting automatic. I press my ass against the line. The last bullet's first online. Step and step in a rep. give me the microphone before I bust on my pants. The mad author of anguish, my language polluted. Onyx is heavyweight. It's still undisputed. It took the words right out my mouth. I walk a mile in my shoes. I pay so many dues. I feel used and abused, and I'm so confused. Now, excuse me, for example, I'm an inspiration of a whole generation. And unless you got 10 sticky fingers, it's an imitation, a figment of your imagination. But wait, it gets worse. I'm not watered down, so I'm dying of thirst. Coming through with the scam, foolproof plan. B-boys make some noise and just scam. Slam, tuturu, tuturu. Speriamo che anche voi siate slammando come dei pazzi. Questo pezzo appunto è il singolo simbolo degli Onyx, che è praticamente la canzone che li ha identificati, multiplatino, super visualizzato anche oggi su YouTube, e a quanto pare, perlomeno recita Wikipedia così, ha introdotto la slam dance all'interno del rap, che poi non è così difficile da capire. Sostanzialmente questa roba è buona per pogare, però vabbè, gli americani devono chiamare tutto in qualche maniera particolare, potevano dire pogare. Vabbè, gli Onyx, facciamo una breve cronistoria, si sono formati a South Jamaica, Queens, a New York City, nel 1988, lo stesso anno in cui sono nato io. Sono stati fondati dai tre compagnetti di scuola, Fred Rostar, Suave, che poi durante la carriera ha assunto anche il nome di Sonsi e Sonny Sisa, e dalla buona anima di Big DS. E quindi mi direte, ma Sticky Fingers, cioè quello che è il simbolo del gruppo, si è unito dopo nel 1991. Che cosa è successo fino al 1991? Sostanzialmente appunto il gruppo ha preso il nome, l'aveva scelto Big DS, e appunto hanno cominciato a scrivere, hanno cominciato a fare le prime produzioni nella cantina del loro producer dell'epoca, che era B-Wiz, che era uno dei pochi ragazzi nel quartiere ad avere una drum machine, che aveva un SP, un SP12, e poi praticamente nel 1989 hanno assunto un manager, Jeffrey Harris, che li ha fatti ottenere un contratto con la Profile Records. Che cosa succede con la Profile Records? Loro fanno la loro prima uscita nel 1990 e registrano il loro primo singolo, Ha! And We Do It Like This, che ora vi mandiamo. Not even a mouse. Your respect like the Pope, and leave your mouth open. Pull the biggest crowd, cause I got the longest rope. And we do it like this. Ah, and we do it like this. Ah, and we do it like this. Ah, and we do it like this. Check it out, everybody. A new fly tune from the Estacoon. It's rough and it's smooth. People, jumping around. People, getting down. But they all is hearing my hype tune sound. Back in the day. Midnight lover. Ah, and we do it like this. Ah. questo era And We Do It Like This, probabilmente il singolo meno famoso degli Onyx. Ve lo ricordavate? Avete riconosciuto il loro proverbiale stile? Forse no, perché in realtà poi hanno cambiato totalmente stile. In effetti questo singolo andò maluccio, proprio perché in realtà non ci fu promozione da parte della Profile, del resto loro erano degli illustri sconosciuti, e sostanzialmente diventò una hit minore nei club, perché comunque era una cosa un pochino più da festa. Pare che Fredro abbia visto DJ Red Alert, che insomma è un DJ abbastanza famoso a New York, in un club che aveva il disco che suonava solo la strumentale. Gli ha detto: perché suoni solo la strumentale? E lui gli ha detto: perché il rap non mi piace. E allora che cosa succede poi? Succede che gli Onyx, alla ricerca appunto di una nuova etichetta, incontrano Jam Master Jay, fu DJ dei Run DMC, che decise appunto di dargli un paio di mesi di tempo per registrare una demo che poi avrebbe prodotto lui stesso con la sua etichetta discografica. E poi al momento della registrazione né Suave né Big DS erano disponibili a registrare, perché erano bloccati in Connecticut. Fredro Starr si trovò quindi a chiamare suo cugino Kirk, che all'epoca performava col nome di Tropo. E indovinate chi è che era suo cugino Kirk? Era Sticky Fingers. Hanno fatto questo provino, è andato bene, e da lì è nato l'album Back the Fuck Up. Quindi la formazione era di quattro elementi. Nel frattempo il loro primo producer B-Wiz non aveva più creduto nel potere della musica, e allora ha venduto l'SP, è andato giù a Baltimora nel sud a vendere il crack, e poi gli hanno anche sparato ed è morto. E quindi diciamo, insomma, comunque effettivamente ghetto stories. E allora, come dire, nel gruppo è entrato un quinto elemento, Chai Skills, il loro nuovo produttore. Quindi diciamo, dopo tutta questa manfrina è uscito Back the Fuck Up, che è il loro disco più iconico e famoso, con tutte le hit tra cui Slam. È uscito il 30 marzo del 1993, nel giro di 7 mesi è diventato platino. Il primo singolo estratto si chiamava Troia Guns. State pogando nelle vostre stanze, speriamo di sì. È per questo che ci piacciono gli Onyx, una musica che pompa sempre fino all'ultimo BPM. Devo dire che quando ero un ragazzino la pompavo tantissimissimissimo. Anche tu, Gigi? Anche Gigi. Per chi ci ha chiesto il significato delle canzoni o il motivo delle canzoni, insomma, questa volta siamo carichi di notizie, dedicata al nostro amico Gulli, a.k.a. Guglielmo, a.k.a. Sapo Gulli, che è molto curioso e, insomma, di avere informazioni. Throw your guns, cioè lanciate in aria le vostre pistole, sparate, che sarebbe il ritornello del pezzo di prima, è dedicato alla tradizione giamaicana, appunto, in cui insegna di rispetto si spara in aria, appunto, quindi non era un messaggio violento come specificato dai componenti del gruppo. La cosa abbastanza particolare, che poi c'era anche un video su YouTube che poi è stato rimosso prontamente, che ha un concerto in chissà che quartiere qualche anno fa, appunto negli anni 90, effettivamente certa gente ha effettivamente sparato in aria durante la canzone. Io non stento a credere che sia successo anche altre volte. Comunque, insomma, questo era il primo singolo estratto da Back the Fuck Up, appunto, album fortunatissimo. Il secondo singolo era Slam, che è stato fatto anche sotto la supervisione molto accurata di Jam Master Jay, perché effettivamente tutte le canzoni erano belle pompate, ma non c'era una vera hit. Slam ha fatto il botto. Poi c'era effettivamente l'altro singolo, che non è stato così fortunato, ma è comunque assolutamente caratterizzante, assolutamente pompante. È un singolo molto grimy, come gli piace loro definire, che parla effettivamente di chi sta un po' ai margini, di chi effettivamente non lo fanno entrare al club, o di quelli che vengono shippati fuori dal club. Quindi è proprio una street hit ed è intitolata Shifty. Shifty, un altro pezzo che mi pompo ancora tantissimo, forse più di Slam, perché Slam ormai ho fatto il pieno, invece questo qua ancora no, e ancora me lo pompo tantissimissimissimissimo. Back the Fuck Up è stato anche insignito del titolo di album rap dell'anno 1994, giusto per darvi qualche numero. È l'album simbolo degli Onyx e il loro album di maggiore successo, perché effettivamente gli altri hanno venduto ma non hanno mai raggiunto il platino. Una curiosità che appunto raccontava Fred Rostar riguardo il making of dell'album, sostanzialmente dice che erano fatti di LSD tutto il tempo, quindi non male. E diciamo, in questo momento di estasi creativa hanno voluto rivisitare la canzoncina infantile London Bridges in una versione tutta loro che ora vi proponiamo. Siamo prossimi a lanciare l'ultima traccia estratta da Back the Fuck Up. Beh, bisogna dire che io avrei messo tutto l'album, però vabbè, sono molto di parte. Non abbiamo detto come era strutturata la copertina, andatevela a vedere, molto bella. Sostanzialmente è stata fatta su una lastra di plexiglass, e lo spettatore è come se fosse al di sotto degli Onyx che, vestiti di nero, rasati a zero e con le mitragliette, puntano verso di lui. Quindi una copertina assolutamente tranquilla. L'ultima traccia che gli volevamo proporre si chiama Fat and All That, che tra l'altro ha ispirato poi il creatore del marchio streetwear Fat Farm, per chi se lo ricorda. Questa è una traccia che piace tanto a un mio amico. Questo mio amico oggi fa 31 anni, è il 27 settembre ed è il compleanno di Gelo, a.k.a. DJ Radio Rahim, quindi penso che sia il miglior modo per fargli gli auguri di compleanno. Avremmo dovuto mettere una traccia di Stevie Wonder, ma tant'è, la puntata è sugli Onyx, quindi gliela dedichiamo questa traccia a Gelo e anche a Vea, se ci ascolta da Torino, che l'altro giorno faceva gli anni. Questa è Fat. Su questo corretto festoso abbandoniamo Back the Fuck Up e ci spostiamo all'anno 1995, anno del secondo album degli Onyx, che nel frattempo erano diventati un terzetto più Chai Skills, quindi il loro produttore, quindi quattro. Chi è che se n'era andato? Se n'era andato Big DS, che aveva deciso di proseguire da solo nella sua carriera solista, ha fatto un demo e poco altro, perché poi purtroppo poco dopo si ammalò di cancro e scomparì nei primi mesi poi del 2003. Comunque è sempre rimasto, sempre stato molto vicino agli Onyx, tuttora ancora sulle loro pagine social i componenti degli Onyx lo ricordano con affetto. Quindi questa è la nuova formazione degli Onyx, quindi composti da Fred Rostar, da Sonsi, da Sticky Fingers e da Chase Kills. Anche quest'album è stato prodotto da JMJ Records come il primo, è stato prodotto dagli Onyx a livello etichetta, poi è stato pubblicato appunto sotto JMJ Records, appunto l'etichetta neonata sostanzialmente nel 1995 degli Onyx era Army Records, e appunto fondata da Fred Rostar, che aveva incontrato un signore che gli aveva appunto proposto $1 milione per fare un nuovo disco dopo il successo di Back the Fuck Up. E quindi nell'ottobre 95, praticamente 25 anni fa, è uscito All We Got Is Us, che non ebbe lo stesso successo commerciale del primo album, ma comunque è stato sempre molto apprezzato. È un disco ancora più oscuro rispetto a Back the Fuck Up, che aveva anche quel lato festaiolo. Questo è molto oscuro, molto dark, ma è sempre stato molto apprezzato dalla critica, un po' meno commercialmente, ma a livello di rap è validissimo. Il primo singolo estratto è anche quello che vi proponiamo noi, anzi vi proponiamo la coppia direttamente, Last Days, e la title track All We Got Is Us. And Whitey trying to slave us. Women in my wages, slamming my niggas up in cages, changing their behaviors and spitting razors. That's outrageous. Smoking roaches is hopeless. We want lazy sofas and scotches. Ladies, jokers who fuck us. For house and royal flushes. Roll with the rushes, that official nass. Got bitches with pistols and gas. We living in the last. My theory is fuck it. Sexy niggas get abducted. My corrupted is conducted through ghetto. Sipping on Moretto. Hand on the metal, foot on the pedal. Never settle. We want Carolina Herrera. Dirty Donna Karen sweaters. Yeah. Rough and levers and sweats. Go play their guns and grenades to blow up. I got news from the informers. I'm trapped in corners, busting shots at sign corners. My man Big Top, he know how to get by. Get high, do a jigs, then be fixed to be fly. Submit, crossing up and downtown action. And when he sticky, keep a grip and move with traction. Keep mad alibis, a plan to stay wise and wide-eyed. Living in the state of Southside. Crooked jakes and fake snake niggas all out for papes. All who wanna overtake you, leave them with drapes. The white sheet covers this heat, smothers the street, eat brothers. Six shots rang, Duke got bang, bang. We all ready for these wars. We all want more. These the last days. It's yours. 32 shots, asserted the class. You heard it for blocks. The murder who gots, converted who drops. Living life on the edge of dangerous. Way of living, never giving a shit. Cause we living in it. Cause it be you off the hook. Crooks crash. Cheaper spots and selling rocks. The cops around the clock. It's hot. Living life on the edge of dangerous. Way of living, never giving a shit. Cause we living in it. Thinking about taking my own life. I might as well. Except they might not sell weed in hell. And that's where I'm going, cause the devil's inside them. They make me ride for my own nationality. That's kinda ignorant, but yo, I gotta pay the rent. So yeah, I'll stick a nigga most definite. The degenerate, if I can call them innocent. Cause I don't leave no sticky fingerprint. For the cops, they only good if they dead. Know that badge and the gunship be going to their head. To make bread, I gotta steal for sport. So I stole a show and made some pennies for my thoughts. And if this fucking rap shit don't pay, I'ma start selling drugs around my way. Killing my own people in the USG. Shit, they gon' get it from somebody, I'd rather it be me. Besides, they can't tax dirty money. And you can't trust nobody. Nobody. No one. No one. I'm the Scorpion. And I'll probably bite the bullet, cause I live by the gun. Can he hit his 25 to life bitters who just came out and pulling flame out? Say game, blow your brains out. It's life on the edge of dangerous. Way of living, never giving this shit. Cause we living in it. It's South Suicide Queens when niggas sack up. Nigga, back up. Official ass, throw your fucking gats up. It's life on the edge of dangerous. Way of living, never giving this shit. Cause we living in it. We never giving this shit. Cause we living in it. Official ass motherfuckers don't give a shit. Word up. I need four Dutchess, son, C's. Have you ever seen time? Yeah, man. Hold on. Relax, man. I'm saying, man. All the motherfucking hustlers and drug dealers now wanna be rappers, man. Then you got the fake rappers that we see through like sequins. Wanna be hustlers and drug dealers. They don't know how deep the game is, man. What part of the game? Yo, son, C, come here, go. Hey, yo, what's up, nigga? Yo, what type of shit was you going in the UConn, man? Kid right there, he was on some sexy shit. You know, the big rock rings on the pinky. You know what I'm saying, man? I'm saying, fuck what you going through. He act like he can't get it. Word up, kid. You know it ain't like that. Never that, nigga. Word up, cause niggas be fronting on that next shit, the extras. But I'm trying to put the pressures. Shit, you got that? No digging. Come on, let's go see what he about. Hey, yo, dude, come here for me. Hey, your money. Yo, what's up? Nigga, you're heartless. You ain't heartless. You don't want no part in this. You ain't got it in ya. I'm born to be a sinner as I move through these evil New York streets like grease. And some kids get caught up all up in the crime rate. Couldn't hold your nine straight when you was busting your old clip and hitting nothing. Your old block got up, only two niggas got up. Came down fast, caught the cash in the product. Caught two pants down with your clothes off. A nigga never knows. A nigga never knows. You got your rhymes, niggas? Bring it. We start that. It's concrete combat. Where I'm at. A crime covered city. Where it's no time for pity. We coming from the village of the unprivileged. Blood soaked bills through murder actions. transactions all illegal. I smell the cheap like a beagle. Evil stalks and lurks, dominate and do works in my dwelling. Niggas spilling shells and compelling the boss smelling. Do you just the smell it? Ain't no one we can trust. Either on the rush or get rushed. Cause all we got is us. These evil streets is rough. Ain't no one we can trust. Either on the rush or get rushed. Cause all we got is us. These evil streets. I see the world through the eyes of a nigga on the brink. Drugs got my brain fried, making it hard to think. And I'm trapped in these evil streets. Driving some scuffed up, ran down, beat a past him. Some kid pulls up with chrome dip Bugatti rims. Now I'm thinking it's 3 in the AM. I'm walking, he in the BM. Drop top 3 and don't even see me. What you gonna believe? He saw my gun in 3D. 10 blocks later, I'm trying to work the CD. Spotted 50, dipped on the BQE. Cause ain't no way them pigs is bagging me. At Supper Sun Sea, we are fish nasty. For niggas that force the issue, my man had tossed the pistol. And of course I hit you, let that loss be with you. The more L's, the higher. Streets of fire, make ice hearts emit full worldly desire. It's the black attack, born on the corner. Nigga grew up fast to get that looter, ready to shoot up. Shoot up. And they do anything to achieve it. Better believe it. Run with a band of thieves who retrieves the goods. Stacking stacks and pushing niggas shit back like they should. While we was gone, some shit done develop. Now parlay, sit back and watch army swell up. Swell up. Yeah, punk niggas. As we move through these evil streets, as we move through these evil streets, as we move through these evil streets, as we move through these evil streets. Only nigga that can kill me is the nigga in the mirror. And when I cuff a mic and make my fighting words clearer. A nigga without a gun is like something is missing. That was my employer when I ain't have a plot to piss in. So listen! Keep a gun even if it's not needed. Better that than to have none and be in deep shit. We mold on niggas like bacteria grows. Souls be lucky if they walk away with a black eye and a broken nose. Niggas who's hill niggas for polo and hill figures. It's over real ill niggas who still triggers. Ain't nothing over here pumping soft. Shit be jumping off on the rag. Don't beat me in the head with that. Go ahead with that. I think back me and my man's brother. We brought somebody grandmother. Pulled out the bitch ran for cover. Keep niggas guessing with a face without expression. For niggas stressing, I leave a lifetime impression. It shines like fluorescence when the flame comes out. It's all about what you got when your gang runs out. Shit is hot. You could get burned with heat. We take turns. E questo era All We Got Is Us. Con Gigi notavamo che questo secondo album si sente molto meglio, non ha i volumi marci del primo, come al solito il primo album viene realizzato in maniera marcia, cioè di solito è quello più memorabile, però è anche memorabile in negativo per quanto è registrato in maniera marcia, questo invece si sente molto meglio, anche se magari appunto è meno memorabile come hit rispetto alle altre. Per questo disco effettivamente erano state registrate 25 tracce, ma sotto la supervisione di Jam Master J ne sono state pubblicate solo 15. Vi siete ricordati di aver già sentito la prima traccia che abbiamo mandato, Last Days? Probabilmente l'avete sentita in 8 Mile, perché il beat era usato appunto per le battle di freestyle. Quindi non era un caso, anzi è stata una hit a livello underground molto molto molto molto molto importante. Che cosa c'è da dire di più? Che per la cover è stato usato, diciamo, una placca di metallo che è stata dipinta da Sticky Fingers e Fredro, che hanno appunto dipinto una faccia pazza, che era anche un po', come dire, contrariata con, come dire, prima degli emoticon c'era la parentesi con la bocca in giù, che un po' praticamente è più difficile a spiegarlo a parole che andarselo a cercare, ma sostanzialmente è diventato il simbolo degli Onyx. Quindi quella placca lì non è stata fatta, quella copertina lì non è stata fatta su un foglio che poi è stato particolarmente lavorato con effetti, mica effetti, è stata proprio dipinta una placca, proprio artigianato puro. Quindi è anche bello ricordare queste cose qui. E nulla, che cosa abbiamo? Abbiamo ancora due singoli, uno si chiama Live, appunto l'altra parola non si può dirla, anzi è stata passata nelle radio appunto come Live ed è stata nella colonna sonora di The Show, che era un documentario uscito nel 1995, e l'altro pezzo è Walk in New York. Ah! But I'ma do this with a simple instrumental. This is what I'm into. For the money, it's essential. And I got the habit. A verb addict, fanatic author with the verbal. We heard who ever try to defy these guys. They in the skillet. So all that shit you say you do. You yapping, not selling that flapping. Irking me in the back slapping. You were in the punch top. If you was the captain. Guess what? It's here. And yeah, we the core. The it's time to get live once more. We back on this agenda. Yeah. And for your hopeful niggas trying to be contenders. And we come down like goose coats in the winter. NASCAR smashing George Harris. Nothing just niggas bust the caps when I was rapping. Cause niggas be packing pretty brand new pistols just for fashion. But a fraction be acting front and faking jacks is all for satin. But there better be no procrastin' with them acting when you're blasting. Cause when you're maxing and relaxing, that's when they start attacking. Get the cats, forget the facts of life, they're soaking passion. Keep the heat, cause nowadays these streets as cold as the Alaskan. Plus my queens box, my hat is statin', steady stacking. Let me liven up the party. I like to start trouble, cause I'm a little rowdy. And with just three MCs that like to fight, even when we start the shit, we always end it right. So for y'all, frontin's bad for your health. Cause in the night fever, army going for self. Kids is cruel for a cause, and it's these fucked up conditions that we all hate. But fuck it if that's our fate. Just listen up to what I say. Cause niggas get shot daily, every day. Even my man got killed. Now his family's mourning. But from all the dirty that I know that hell is calling. Went to his wake and shit got held up. But niggas with masks on their face, I couldn't escape. I was stuck. They said, everybody in here up against the wall. Like that nigga owe me money, so I'm collecting from y'all. The people gave no struggle. 5 minutes went fast when I said, I ain't giving y'all niggas shit. I'ma just have to get blasted. Representing with my life, a full-fledged thief. And I'm the truth. That's why we always have peace. Niggas in. Y'all niggas couldn't walk my walk, my talk's stronger. This is the way we walk. New York City, and for what it's worth, yo, we the triflest motherfuckers on the face of this earth. So if you don't like your life, fuck with a nigga first. The instincts we got is to shoot first and talk, but what slaves always give us away is our niggery walk. And I speak from experience, so please take heed to advice. We selling guns and drugs and sex, or anything for the right price. The crime rate's no goddamn high. We had to name this shit twice, cause tourists be scared to death to visit the criminal's paradise. Home of bloodshed and tears, and for souvenirs, there's fear. Nobody can. So say your prayers, or you gon' get double-crossed and set up. Even head up or shut up, cause bullets ain't got no names and anybody could get wet up. And end up on the front page of the Daily News. Bought by crooks, dressed in Brooks, and me Hondas and skyscrapers. And I never bought no shit, but then I never took no shit. I'm a kleptomaniac, I think I got a fucking habit. So let's shot to all my boroughs and ghettos across the nation. Other states are Curry Lake and bulletproof appreciation. Cause this is the way we walk in New York. This is the way we walk in New York. This is the way we walk in New York. This is the way we walk in New York. This is the way we walk in New York. This is the way we walk in New York. This is the way we walk in New York. This is the way, this is the way, this is the way we walk in New York. Hey, yo. E quindi questo era Walk in New York, un bel disco grimy. Nel frattempo con Gigi si parlava appunto di quest'album, che a lui piace particolarmente più del primo, quindi diciamo ci si divide. Io sono un fan più del primo, anche se è più marcio. Questo è molto più tecnico, molto più grimy, molto più curato, si può dirlo. E con questo appunto singolo, come dire, chiudiamo la parentesi relativa a All We Got Is Us e passiamo al 1998 con Shut 'Em Down, terzo album degli Onyx, sempre sotto JMJ Records e sotto Def Jam. Le produzioni insomma sono state varie, tra cui insomma particolare importanza l'ha avuta DJ Scratch degli EPMD. Ci sono tantissime apparizioni esterne di tanti MC, che non è una cosa, come dire, scontata, perché i primi album erano più incentrati proprio sulla figura dei tre MC. Tra l'altro, insomma, tra i vari partecipanti c'è la buonanima di Mr. Chicks, che era un amico d'infanzia di Fredro. Ci sono i Wu-Tang Clan, c'è Noriega, c'è Big Pun in una traccia remix, insomma vari. Quest'album è stato l'ultimo realizzato, uno degli ultimi realizzati dalla Def Jam. Gli Onyx hanno pubblicato questo e poi basta appunto con Def Jam, perché sostanzialmente sono stati poi droppati, come si dice in inglese, dalla Def Jam 6 mesi dopo sostanzialmente la pubblicazione dell'album, nei primi di gennaio del 1999, nel cosiddetto giovedì nero, a causa del fatto che la Polygram aveva acquisito il 50% della Sony Def Jam, che appunto c'è stato un passaggio di proprietà, quindi era cambiato il roster degli artisti. A livello vendite non è andato benissimo, però è rimasto abbastanza significativo. Questa prima traccia che vi proponiamo era il primo singolo uscito ed è particolare, si chiama React, e al suo interno c'è niente po' di meno che 50 Cent. It's going on right now. Official Nas, don't be playing around. We lay it down. Dead you for the whole win. Leave you frozen. Crime scene reporter, snapshots like you posing. You got in the way. Sorry to say. Should've known. Shining on sun sees not in the day. All the niggas in my zone. My close affiliates be ripping and illing and drilling and spilling and killing shit. Kill it in the club, baby. Show some love. My real thugs, where you at, baby? Throw your jacks. So all the ladies in the spot, show me what you got. Fake cats in the back. Get rock, what? React. Kill it in the club, baby. Show some love. My real thugs. Where you at, baby, throw your jacks. All the ladies in the spot, show me what you got. Fake cats in the back, yo, rock, boy, yo, react. I'm on some other shit, run up on your mother shit. Hockey mask, black tape, taping up your baby brother shit. 2 guns, one in your face, one in my waist. Empty the safe, hit him with the Glock. He caught a state of shock, fuck this girl and made him watch. Make a death wish, I cut his throat, now wear that like a necklace. Respect this, 22 shots, a body hung. A body of legs, a body of arms, a body this of arms. This shit happened so fast, the gap blasted. past. Left his brains on the glass in the dash. I snatched the cash and fled off in the flat. The only thing I ever lost I couldn't find was time. Son of crackers locked me up, that's how I lost my mind. Hit him from behind four times and tossed a knot. Fuck him, he didn't listen, told him give me the shot. The sick shit is when the police came around to get me. The killers who was with me, the snitches said he was 50. Kill it in the club, baby, show some love. My real thugs, where you at, baby, throw your jacks. All the ladies in the spot, show me what you got. Fake cats in the back, get rock, walk, react. Kill it in the club, baby, show some love. My real thugs, where you at, baby, throw your jacks. All the ladies in the spot, show me what you got. Fake cats in the back, get rock, walk, react. Fuck the rap shit. In the drug complex with convicts and start conflicts, kill your own accomplice. Life in the drain, niggas. Money got my gold chain thick, a whole brain sick, a hall of fame, nigga. From coast to coast, I keep the toast. My weekly gross leave you deeply froze, half dead, close to ghost. Yo, you heartless, your heart pump piss regardless if you a thug or rap artist. I seen death almost die twice tonight. Sell my old mother out if the price is right. I hate life. Give me the clock about to join Biggie and Pac, and you coming like it or not? Get off me, let me go to homie back. Where my real thugs at, baby, throw your gap. Sticky fingers, room out your darkest fears. I make you meet your maker, make you meet the man upstairs. Kill it in the club, baby, show some love. My real thugs, where you at, baby, throw your jacks. All the ladies in the spot, show me what you got. Fake cats in the back, get rock, what react. Kill it in the club, baby, show some love. My real thugs, where you at, baby, throw your jacks. All the ladies in the spot, show me what you got. Fake cats in the back, get rock, what react. Killing it. Kill it in the club, baby, show some love. My real thugs, where you at, baby, throw your jacks. All the ladies in the spot, show me what. Ah yeah! E questo era React. Avete riconosciuto la voce di 50 Cent? Il mio compare Gigi l'ha riconosciuta subito. Bella, dritta e pulita, come non l'avete sentita mai. Ed è normale che non l'abbiate sentita mai così, perché poi con i pezzi che lo hanno portato al successo era appena successo un fatto lievissimo proprio, perché 50 Cent era stato colpito più volte da un attentatore che gli aveva sparato diversi colpi di arma da fuoco alle gambe. Un proiettile di rimbalzo gli ha anche passato la lingua, per questo la pronuncia di 50 Cent è un po' strana e a volte non si capisce quel che dice, invece qua era ancora normale e si sentiva bene, diciamo. Cosa c'è da dire su quest'album ancora? Sostanzialmente, beh, non vi abbiamo parlato della copertina in cui i protagonisti, gli Onyx, sono raffigurati come dei soldati in una foto in bianco e nero, uno slancio patriottico forse, però è anche vero che loro hanno sempre usato come espressione nei loro dischi la versione USG, cioè United States of Ghetto, e vengono anche da un quartiere peso come South Jamaica, che è lo stesso quartiere di 50 Cent, quindi effettivamente era come essere in guerra. E che cosa c'è da dire inoltre? Che sostanzialmente questa traccia è stata la prima traccia appunto in cui è apparso 50 Cent, che all'epoca era un illustre sconosciuto. È stato introdotto da Jam Master Jay, perché appunto già registrava da lui. Cosa è successo? Che al Survival of the Illest, al leggendario Apollo Theater di New York, appunto c'era un'esibizione di vari componenti da Def Jam, lo trovate tutto su YouTube, è bellissimo da vedere. La strofa di 50 Cent all'epoca non è stata rappata da 50 Cent in persona, ma è stata rappata da un altro rapper che allora, appunto sulla prima traccia famosa poi di 50, How to Rob, 50 dissò Sticky Fingers e gli Onyx. Quindi poi appunto ci fu un beef che andò avanti, appunto ci fu anche un confronto fisico tra Fredro e 50 Cent, diciamo. Come dire, il commento comunque finale degli Onyx è stato insomma quello più neutro possibile, però insomma alla fine anche abbastanza obiettivo, perché hanno detto 50 è una persona molto intelligente, molto bravo, alla fine della giornata quello che ha ragione lui, perché lui porta la pagnotta a casa vendendo, però non è giusto che ci abbia dissato, perché sostanzialmente all'epoca in cui abbiamo registrato lui non aveva neanche una macchina, lui non era nessuno, noi eravamo qualcuno e gli abbiamo dato una mano, e quindi non è questo il modo di dare riconoscenza. Quindi questa piccola particolarità con la traccia nascosta, col fit nascosto e col beef non molto popolare di qua, perché effettivamente gli Onyx erano seguiti ma 50 Cent ancora no, ci porta a una traccia leggendaria di cui tra l'altro io mi sembra di avere la versione in vinile comprata a Sinigallia. Si chiama The Worst, quel giorno l'ho digato assieme a Yax, che saluto, ed è un featuring niente proprio di meno che con i Wu-Tang Clan. my man, yo. Head lotto, 300,000 in the bottle. Bitch, Mac, this homo technique. Rover in the robe, go leave. You know the code read. Suitcase money, stole heat. Rock Navi, stole $100 bags, ballot. That nigga crabbed me, gaming himself like Milton Bradley. Yo, listen, semi-automatic, Glock this, unlock this. The weak spots can knock. It's so hot, chicks is topless. Whips is spotless. Chrome rims spin obnoxious. You can't knock this. Bustin' shots, you better not miss. X1 wild out and make you watch this till your eyes turn red with blotches. Eating scraps out the garbage, unload a cartridge and bust a cat. X can never trust a cat. Onyx is as hot as it gets. Bitches fucking for free, it's out of the quest. Blow blood out of your flesh, your body out of your vest. I toss the heat from across the street, fly you up off your feet. You die living short for sweet. Street crime, time is money, nigga. Don't waste mine. Expose my nine, throwing your shine. You froze your time, looking to death, holding your breath. Laid out on the dance floor, blood in my wet. I'm blowing your set. Trick 20 G's, no sweat. You going to debt. I'm going for broke. I'm blowing out smoke. You catch a stroke. Who's hanging ball heads, Swiss foreheads. Leave you all red. X million, fully armed. Illest beyond your realest form. Bringing the storm for seeing you on. Nothing keeping me calm but heat in my palm. Sleeping you gone. You see what I'm on? Peeping out of the dark. Scatter your parts. I'm here to battery park. First things first, man. You're with the worst. First things first, man. You're with the worst. Still master grab after cash, fasting bash and splash in class, mash your staff, what? Nigga get smacked, you ain't worth a punch, hurt your bunch, get murked your front in the wrong circle, punk. Mac clever niggas that regular, catch you on the D-Lo and Mecca and that's your sketch, shaking your face, vacating your space, breaking your face, straight in your waist, twist you and won't miss you, official, master killer beat, full blast, get all smash, pull fast for your stash, long as the war lasts, foot up in your ass. Trying to count more math, bringing the heart. We be the mainstream supreme rhyme, top of the line cuisine fiends. Number one love for the queen, scheming on cream. My whole team love an E cup, bras, and Margaret. Killer sin known for making niggas reach for the stars. This terrorist, live assist in the midst of the abyss. The cannabis evangelist, iron palms with metal fists. Wound built like construction and bang, like percussion on the planet. Battery bats, combustion malfunction. First things first, man, you're with the worst. First things first, man, you're. John John. Sticky fingers, kid, you got my back. I got your back, cuz, I got the Mac dozen. And when them niggas start jumping, bust back, cuz, Cuz it's a new year, time for some new shit. Nowadays, rappers dying over music. Dead on arrival, we raised in the ghetto, singing songs for survival. Ducking on Machado, you rival. Yeah, yeah, Onyx Wu-Tang on tracks, we gang bang. Chitty bang bang. Chitty chitty bang bang. Hot Nick, spit flame. Lava pump through my veins. Caught in the zone, home on the range. Hey yo, you rang them ferocious, atrocious. We got that supercalifragilistic expiala. Dope shit. Eight ball in the corner pocket. We snatch wallets off the white collar. The Big Apple forever rotted. Narcotics hunt the hard target. Hot Knicks. So what the bummer clotting? Pop shit, we do the knowledge. To sharp niggas once bitten. Major swingers heavy hitting. Polly your kitten, throw up your mittens. Stop bitching, no slipping, no pot to pissing. The melting pot's boiling hot now in Hell's Kitchen. Yo, 50 fingers, one of the illest motherfuckers, believe that. Moms don't raise no suckers. I slap rappers, turn them into singers. Touch something of mine and you have nine fingers. Enough said, let's make this whole fucking town rag. E yo, e questo era The Worst, che appunto mette in gruppo due pesi massimi appunto del rap, che tra l'altro si incrociarono ai Grammy, se non mi ricordo male, di qualche anno fa, perché sostanzialmente Sticky Fingers incontrò nel bagno la buon'anima di ODB, dicendogli che appunto dovevano promuovere l'album e che aveva una trovata per promuovere l'album, cioè interrompere la premiazione dell'album di Puff Daddy, che era stato nominato miglior album, No Way Out. E quindi, come dire, ODB, che probabilmente era fatto come una mina come al solito, disse: ah cavoli, buona trovata, andiamo, facciamolo. In un attimo è sparito. E praticamente Sticky Fingers dietro le quinte ha visto che appunto quello che poi è diventato un video assolutamente iconico, cioè ODB strappare il microfono al presentatore e dire noi siamo qua, siamo i Wu-Tang Clan, Wu-Tang Clan is for the children, eccetera eccetera eccetera, e sostanzialmente Sticky Fingers dietro le quinte rosicava perché gli aveva dato l'idea. Quindi la sfacciataggine di ODB, che poi tra l'altro venne citata in una traccia successiva di Sticky Fingers, non era una traccia diss, però indicava che alla fine gli aveva rubato l'idea. Detto ciò, abbiamo ancora due singoli da Shut Em Down da proporvi. Il primo è la traccia titolo, featuring un altro con la vocina dolce, melodiosa, calda, come DMX, visto che ormai a questo periodo pare che piacciono molto i rapper che gridano. Abbiamo scelto questo gruppo perché loro gridano di più, e quindi abbiamo scelto quindi Shut Em Down e Ghetto Stars. Word out. Just like this, man. Straight to the whole world. Yeah. Yeah. Yeah. Shut him down. Shut him down. Yeah. Yo. Shut him down. Shut him down. Shut him down. Yeah. Shut him down. Shut him down. Shut him down. Shut him down. Shut him down. Shut him down. Shut him down. Shut him down. Shut him down. Shut him down. Shut them down, start the violence, we wildin', sling rappers, body found, washed up on Coney Island. When I rolled up, this nigga hustle slowed up, that killer froze up. When I pulled up, jumped out with the pump, out 32 shots and ducked out. Then I broke out, left that cat for dead, his body smoked out. Cause when I fall out, that killer's gotta kill me, kid, I'm going all out. Life's a bitch, fuck it, got the gun, bust it. The gameplay, gotta play by the rules of your own, cannot be trusted. Don't try to test, surprise your chest with five inside your vest. Every lane with a death rest, should've known when you was looking in the eyes of death. Ask Lord for forgiveness, when I did this, there was not no witness. But he should understand, cause even God got a shitless, you gotta die. Yo, it's B-Downs Anonymous. I spits like a shiny silver nanobus. Niggas fond of us, we the kind that rush. Those that hold back, taking your whole stack. Grimy street cats, niggas forehead like Kodak. Go gap, forget, poke that. If that, you can smoke that. Uncut black dust, making your whole fucking skull pack. Better know me, 1-3, one and only. Could be never phony in any ceremony. I tell you, homie, shut him down. Sun sees, taking your time, making your mind. Let this nigga on the low defecate. It with rhymes, breaking your spine. Got you moving from the flurry, time to worry. I'ma bury the bullshit, fill my pool clip. Shut him down, shut him down, shut him down. Shut him down, shut him down, shut him down. What? Shut him down, shut him down, shut him down. Shut him down, shut him down, shut him down. Hey, yo, I bet you this motherfucking double barrel will blast his face. Be on the lookout for a basket case. Pumped you up to watch you get beat. Had you thinking shit's sweet. Now you up shit's creek, cause your shit's weak. How much is your life worth to someone important? Cause I be extorted. Kidnapping for ransom is some shit that you don't wanna get caught. From back in the days of Gordon, niggas was getting robbed. The guy from knocking hide if he stayed on his job. But his own little mom, it's worth going back to the earth so soon. Worth making my shit go boom. But you don't do it for them graveyards and there's no room. Fuck you know about a pine box. Money going out with nine glocks. On top of you and that same nigga when they pull out 29 shots. Till I kill up your crew, I ain't gon' rest. Take a whole lot to flip your best. Then watch your lungs just spill out your chest. Best get on some actual age shit. Yo, little kid, that grown folk faces. More niggas get killed like that than a little bitch. Sticky. F-I-N-G-A-Z, the crazy Cajun. Blazing bullets for days and days and grazing. Amazing, I'm the glazing, lazing. Purple hazing, hard to be phasing. Lord, all this hell that I'm raising. God of the underground, I'm gunning them down with a thunder pound. We caught him. He turned shit dumb quick when the gun click. Lying in your rhymes, worse than lying on your dick. In a morgue, admin of dogs, I'm the rock waller, my clock holler. Fuck cocaine killer, I sniff gunpowder. So all your real willies, throw your rollies in the sky. Now all my crooks, rob them players outside. I'm so hype, I'll take your life, better have my dough right. Fuck five mics, I don't need no mic. What? Bring it. Stop, long as I stay hot. Cook it up, chop it up, put it on the block. What's up? bullet on the chart till it hit the top. Nigga, not too thick to fold, I'm dipped in gold. You have a brand, niggas, can never slam niggas. What part you don't understand, I'm the man, nigga. Why not? Making moves and getting money with my team. We them ghetto stars, this here is far from a dream. Official Nas, here to get up in that ass, word up. Pour some liquor in my cup and pass. Why not? Making moves and getting money with my team. We them ghetto stars, this here is far from a dream. Official Nas, here to get up in that ass, word up. Pour some liquor in my cup and pass. It's mad money in this. Grab a mic, handle your business. This here is for official niggas, only no beginners. I pat my heavy metal, run the ghetto with my sinners. You feel me in my crazy world, I only deal with sinners. Here we go, report some of the vocal lords up in the game. You violate, nigga, I swear I tell you out the frame. Your niggas know the name, we represent the Barrel Queens. With the same routines, but when y'all cats, it's Smith the Rains. Official Nas and LB Fam, bringing you the jam from the Queen side to get green side. Ride with us, shorty, it's all live, peep the vibe, as we keep you wide. So, up the stakes. Cut the kick, regulate, we delegate, and dead they take. That's a rap for that, it's official track for track. I back slap you with my other platinum plaques. You whack rap, whole fools, have you not, and like the dope do. Any member of my crew will roast you. Number one spot, took that, Onyx show, book that. Got a bet, better know where to put that. Why not? Back. Making moves and getting money with my team. We them ghetto stars, this here is far from a dream. Official Nas, here to get up in that ass, word up. Pour some liquor in my cup and pass. Why not? Making moves and getting money with my team. We them ghetto stars, this here is far from a dream. Official Nas, here to get up in that ass, word up. Pour some liquor in my cup and pass. Cause it costs more than your house. I got a fly chick with gats, whole coke in a blouse. Talking about 100 G, show sold out. See, you see that, you better shut your mouth. I used to scheme on niggas that had more than me. Now I'm that nigga, and niggas scheme on me. I got a ghetto mentality. If a nigga front, I'm gatting him. I never had nothing, and my Rolex is platinum. I be the same man, rich or poor, wildin' out at the club, time to hit the floor. Outside, I got the info in the Ferrari cockpit. Fuck Polly, with y'all, we already got shit. You propless, meaning you ain't got no props. Let me see you at the wars this year, I blow your spot. Even at a rich event, you can still get shot. Fuck that, as of now, Onyx back in the map. We guarantee to start fights every time we rap. Yo, who got next? Who got first? I'm God's son, the illest nigga on this earth. What? Why not? Making moves and getting money with my team. We them ghetto stars. This here is far from a dream. Official Nas, here to get up in that ass, word up. Pour some liquor in my cup and pass. Why not? Making moves and getting money with my team. We them ghetto stars. This here is far from a dream. Official Nas, here to get up in that ass, word up. Pour some liquor in my cup and pass. Why not? Making moves and getting money with my team. We them ghetto stars. This here is far from a dream. Chissà da che pezzo è stato campionato questo Ghetto Stars. Gigi, tu hai un'idea? Probabilmente da un pezzo di Carmelo Zappulla o da un pezzo di Gianni Vezzosi, di cui gli Onyx erano sicuramente fan. Speriamo che l'abbiate riconosciuto. Se non l'avete riconosciuto, è Another One Bites the Dust dei Queen. E quindi questo era l'album Shut Them Down. Passiamo al 2002, anno in cui gli Onyx, come dire, intraprendono una nuova carriera con una nuova etichetta, cioè Koch Records. Un album viene fuori, appunto viene prodotto con questa etichetta, prodotto da Da Vinci, Dr. Period, famoso beatmaker anche di Smooth The Hustler di Brooklyn, Avok e poi insomma moltissimi altri, tra cui anche Scott Storch. Questo album si intitola fantasiosamente Back the Fuck Up parte 2, in cui sostanzialmente in copertina gli Onyx fanno un po' il verso alla prima copertina, sono in 3 invece che in 4, e sarebbero di lì a poco sarebbero diventati permanentemente 3, perché effettivamente pochi mesi dopo, con grande appunto disappunto e smarrimento e dolore di tutti i componenti, scomparve Big S, come detto prima, a causa della leucemia. Il primo singolo estratto è un singolo abbastanza simbolo anche lì, perlomeno per chi ha conosciuto successivamente gli Onyx, tipo il mio amico Claudio, che conosce solo questa traccia qui, Slam Harder Like Vince Carter, quindi dedicata anche al famoso celebre giocatore NBA, che è il primo singolo che vi presentiamo. Them gas, see a thug on the TV, the chicks dig that, but we rap for them streets with them in the club. You only pop bottles of bub. Y'all ain't got no real shit love. To the depth, to the ghetto. My kids were heavy metal on the everyday hustle. Never ready to settle. Back together with that classic Terra Onyx. Back forever bustin'. Gas together. What? Era Slam Harder, tra l'altro un bellissimo album che vi consigliamo di ascoltare per intero. Io ce l'ho avuto anche in vinile quest'estate, bravo chi l'ha comprato, se non mi ricordo l'ha comprato DJ Mad Mill, che saluto, e chi invece non l'ha comprato ciccia, ascoltatevelo da YouTube. Abbiamo altri due singoli bellissimi, uno in pieno stile Onyx che si chiama Bring 'Em Out Dead, che è il prossimo che vi passiamo. Tra due singoli, cioè dopo Bring 'Em Out Dead, c'è invece una canzone insolita, un pochino più riflessiva. Effettivamente gli Onyx fanno roba molto party, molto dark, molto street, ma non tanto, non sono tanti pezzi riflessivi. Questo è da notare. Questo pezzo, appunto, che sarà successivo, si intitola Feel Me ed è stato scritto interamente, in tutto d'un fiato, la sera dell'11 di settembre del 2001. Quindi è una canzone dedicata a New York e alle sensazioni fortissime che in quel momento provavano i suoi componenti dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Let it off, get it off, yeah. Get this shit wild like thugs from up north, yeah. Fights in the crowd, the shots to jump off, yeah. Bodies on the floor, blood on the dance floor. Get stuck at the bar, get robbed at the door. Trapped off at the go-check door. Take it off, get down, face down to the ground. Killer for the dough like Bo from uptown, yeah. Cut your finger off, send it to your mom's house, yeah. Never testify no matter how it goes down, yeah. When I park shots, you niggas are ducked down, what? Run up on your block, you niggas get shut down, yeah. Give it up, you don't wanna try to resist. Before I hit you up, you don't wanna die for this. So we gon' load our guns to this. Black mask, face down, motherfuckers getting robbed to this. Take them out, bring them out, dead. Take them out. Body disappear like Copperfield. No funerals, no wakes, no doctor bills. Now that niggas ain't kicking shit, I can feel. Come on. Getting it down real big, that's what we doing. Give them the most raw, that's what we doing. The game gon' understand, the world gon' understand. These niggas is gunning in, you die for these grand. Shots from the Macca, killing he got swagger. You got it back, stab you with your own dagger. My sons take the six, trunk you don't eat. Fuck that. Everybody saw him take an airplay like it's full time in Oz. Motherfucker, I kidnapped all your kids. Before I had a record deal, what you thought I did? Last job that I had, I was punching the clock. Last niggas that I tied up was up at Koch. I ain't even need a mask, I ain't bust one shot. Made a wire me my money right there in the spot. Yeah. That's a Cartier watch, nigga, take that off. That's an iced out cross, why take that off? Know what happened to your daughter, I don't make that call. Better take me to the bank or get your face clapped off. Hottest nigga in the club, cause I got the heat. So white bar, one gun box with me. Then step up, youngin', show me what you gon' do. We got big guns, nigga, that gon' boom, boom, boom. Take him out, bring him out, yeah, take him out. Day the World Trade Center blows up. Shit is real, son. Shit hit home, kid. Word up. Yeah. Hope you can feel us. Come on. Hope you can feel me. Hope you can feel me. So much pain inside. Showed the track, it made me cry. Brought tears to my eyes, and I don't even know why. My life ain't nothing but anger and pain. The tattoos on the back of my arm should explain. Blood, sweat, and tears, 10 years in the game. So many time all alone with the gap in my brain. It's me against the world, nigga, I feel the same. I'm ready to die too big, I feel the same. I'm America's nightmare, young, black, and rich. Man, I'm paranoid, make me wanna clap my bitch. 100 miles an hour, wanna wrap my whip. Asking God, shit, where we going after this? I'm a thug till my heartbeat stop. Till they pick me off the street, nigga, murder the shot. My balls, my world, the only thing that I got. And I live by the gun and I die by the Glock. 16 shots, fuck that, I'm taking them all. Rather die on my feet than live than crawl. My gun got powers like the 48 laws. The ghetto superstar, I die, I see my face on the wall. And don't forget me. Hope you can feel me. I hope you can feel me. So much pain inside. So much. Growing up in Brooklyn, times was rough, cuz poor as we was, it couldn't get no tougher. On my app, most of us was not blood, but as kids, we shared that block love. But that faded when my brothers got arrested. They thugged on the block too hard, we was ejected. To the creator, was it you that made moms pick queens so our baby son could grace the world when he create things? While her elders always heard the songs of sirens, because they ignored the divine guidance. Why was the time I was born 9/16? Turn it upside down, it's the same thing. Why do I have an M16 and a 9? Will I have to go out blazing one at a time? When you took mom's baby courage in the early stage, was he too ill for this world and you made a mistake? Did he come back as me to do something great to keep the fam strong and straight, help my brothers escape, and have baby sis and us living on an estate? Do it big or die trying, is that my fate? You can feel me. Hope you can feel me. So much pain inside. Hope you can hear me. Oh, I'm crying through my heart. Who really cares what the world think about me? If I die right now, is you coming with me? When I'm broke, who the hell got money for me? Can't even trust half the team running with me. I only know three people that'd kill for me. Break the sixth commandment, make blood spill for me. Life and death, the only thing that's real. E questo era Filmi. E quindi passiamo al 2003. Il 22 luglio del 2003 uscì il quinto album degli Onyx, intitolato Trigonometry. Urca, ragazzi, che gioco di parole. Per chi non lo sapesse, per chi non avesse ascoltato abbastanza hip hop, perlomeno non abbastanza quanto me e Gigi, ad esempio, sa benissimo, insomma, chi ne ha ascoltato abbastanza sa benissimo che trigger vuol dire grilletto e trigonometri è un argomento, insomma, che si studia a scuola, della trigonometria, quindi la geometria del grilletto. Pensate un po' che grande tema. Vabbè, sono i soliti giochi di parole, insomma, un po' da ghetto. E niente, questo album uscì sotto D3 Entertainment. Tutto l'album è stato prodotto da Chronic Tones, che francamente, a parte questo album, io non ho ascoltato altre sue robe. E uscirono, insomma, un paio di singoli che sono quelli che vi stiamo per proporre. Un album che andò male dal punto di vista delle vendite, e si spiega subito perché. Sostanzialmente i fan degli Onyx, che amavano la roba street, sostanzialmente sostenevano che questi singoli qua fossero roba da nightclub, da club, fosse roba troppo commerciale e che si fosse persa un po' quella vena creativa. Quindi sostanzialmente andò male da questo punto di vista, per quanto, insomma, la scelta del produttore unico io è una cosa che avallo sempre, perché dà al disco un sound più omogeneo. E quindi, diciamo, è anche l'unico disco fatto con D3 Entertainment da parte degli Onyx. Noi appunto abbiamo scelto due tracce che sono due singoli, uno è Gun Clap Music, l'altro è Wild and Here. L'altra cosa da dire semplicemente è che sostanzialmente ci sono sostanzialmente 21 tracce in quest'album, ma 10 sono canzoni e 11 sono skit, in cui tra l'altro finisce sempre appunto il trigonometri, che c'è una sparatoria e vabbè. E quindi, diciamo, è anche abbastanza rilassante, ve lo consigliamo prima di andare a dormire, di ascoltarlo prima di andare a dormire. E allora, bando alle ciance, i singoli che arrivano sono Gun Clap Music e Wild and Here. Like a gay slave tape bus, guns in this, raising the crime rate. Niggas better blast when it's time to shoot. Niggas on the roof trying to blast that juke. See me in a six coupe, you twist engine, skidding. Notice seem left, guard ridden. New guns, old guns, need to test those. I burn, baby, burn like sniffing asbestos. Bust slow, reload, stay low. I twist more caps than a 40-year-old gold. Bitches know, can tell by the look on a thug face. The way they played in the club, it ain't safe. Fuck rap music, this is gun clap. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Hold it up, cock it back and blast too. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Hold it up, cock it back and blast too. Hey yo, I'm still not a hater, but the heater sprayer. Say hello to the bad guy, meet your creator. You're gone, lock down streets and blocks out east. Hot out cheeks, knocked out teeth and chopped down beef. With the box pound heat, is your option to die? Popping a 9 or 10. Then guns in the sky, grew up in the style. Peace to every ghetto, up in them X-Singles with my niggas from Queens with heavy metal. Drug fast through the BJs, squeeze the 3As. Now we paying DAs, getting paid through three ways. Who wanna die? It won't cost you a dollar. Get your boys to follow. Of course you still gonna holler money. I'm sick, keep putting clips in the Rugers. It's fit, you couldn't measure my film for six shooters. Hold up, killer, I'm all about getting loot. When I cock back to, I'm giving Glock tattoo. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Hold it up, cock it back and blast too. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Hold it up, cock it back and blast too. Some say the bigger the gun, the more damage you do. I say the smaller the pistol, the better it shoot. I give a holler to my niggas in warfare. Sticky don't care if don't nobody else care. And I'm always quick to reach for the clock. So if you run up in my spot, motherfuckers get shot. In these streets, niggas driving fives getting set up. Forgive, but don't forget your bins and get wet up. Niggas come around front and don't believe them. You ain't no killer, you be laying there bleeding. Cause nigga, you know me. Don't make me blast you up and snatch your ass out the beat. And bitch niggas don't blast back. They like ladies and take their ice change to the casket. And since we all came from the hood, got a name from the hood, and I came from the hood, I think it's time to kill for the hood. Can't be stopped. really care how many bombs y'all drop. You under attack. Onyx is back, another mad face invasion, straight like that. But my real niggas holler back, blast is still. Cause real niggas really butt shots and really kill. And real bitches really suck cock just for the thrill. When they start the revolution, all you probably do is swill. For the streets, my niggas strap up your tins. For the Jeeps, with them sewer caps for rims, we got heat. HK, Max, and Tim's, 100 deep. Them grimy niggas back again. You get clapped up, dying trying to be on top. We running the block, blazing, gun still hot. For throwing bullets on the truck at your number one slot. Y'all niggas running this rap shit, we got the streets locked. It's getting wild in here. Yeah, they know our style. It's them same going hard niggas that showed y'all how. Much more rappers means more acts to wrap up. Lot of spots to go, mad clips to stack up. The whole game got lopsided, got trotted. But we move crowds like shots fired. Nothing different, still relentless, bigger percentage. More robbing spree kids on them, stick up adventures. For captures, problems, they jobs is done. By six starting Sunsea, the darkened one. Blowing they spot, make they label roster run. On the wrong side of that, a cautious song, 9 digits, seems time figures. Y'all was all right, now we what's wrong with y'all niggas? Onyx is here, we busy. For them cats, that's a rizzy. Back the fuck up, y'all know the stizzy. It's getting wild in here. The heart of the street, that's why nobody says shit when I jack they beat. That's right, you heard it, straight from the horse's mouth. We at war, so ain't no talking it out. Onyx can't break up now, the street life need us. When you think of us, think ball head guns and wife beaters. Hot ice and fast cars running through light speeding. Got bitches backstage hoping they might need us. You always gonna find me surround by women. The mad face niggas got money, now we grinning. Just cause you see me smile, don't think now we kidding. Lock you in my basement, let you die malnutrition. But before I die, I gotta share my pain. Niggas gonna have to kill me like Tim McVeigh. Can't infiltrate the unit, cause it's well made. Time to get paid and blow up again like years. Ah, yeah, mascherine. State muovendo il collo? Noi sì, tantissimo, anche con quelli che sono considerati i singoli più scarsi da parte dei fan degli Onyx della prima ora. Ci piacciono anche questi singoli qua, magari non esageratamente, magari non condividiamo la versione appunto del pubblico che diceva che fosse merda la club, diciamo però anche vero che ormai 20 anni dopo la merda la club è altra, quindi per dire che insomma le cose cambiano e anche un pezzo vecchio può risultare anche bello. Continuiamo con la nostra cronistoria. Nel 2009 Sonny Sisa, a.k.a. Suave, a.k.a. Sonsi, lasciò il gruppo, per quanto comunque continui a pubblicare dischi solisti in collaborazione sostanzialmente con l'etichetta formata da Fredro Star. E quindi sostanzialmente gli Onyx diventarono un duo, cioè i due cuginetti tanto simpatici con la voce melodiosa, Fredro Star e Stick Fingers. Per chi non lo sapesse, hanno fatto anche una miriade di film, Fredro soprattutto, che ha fatto tipo 55 apparizioni tra film e TV. Quindi che cosa succede? Che la triade tanto cara a noi, che effettivamente apparivano sempre in questo ordine, Fredro, Sonsi e Sticky Fingers, si rompe, continuano i due e decidono di tornare in grande stile, perché sostanzialmente dopo un break di 10 anni, parliamo del passaggio dal 2003 al 2014, non avevano pubblicato nulla, poi insomma sono concentrati sulle loro carriere soliste. Gli Onyx tornano nel marzo del 2014 con Wake the Fuck Up, il loro sesto album ufficiale, interamente prodotto dagli Snow Goons e pubblicato appunto su Goon Music, quindi dai producer appunto ormai arcifamosi qui da noi, soprattutto perché insomma è un gruppo europeo che suona estremamente all'europea, in omaggio al boom bap degli anni 90. Pensate un po', ci sono come ospiti su quest'album anche la buonanima di Sean Price, poi c'è anche Papoose, c'è Cormega e c'è anche Aesop Ferg, già, che era all'inizio della sua carriera. Quindi, bando alle ciance, vi passiamo il primo singolo che si chiama Hustling Hours. Better get your money, you ain't fucking with ours. We built it from the ground up like the towers. Keep it uncut, we don't fuck with the flower. Late night dope sales, hokey dope sales. Holes in the hotel, coke on coke sales. Oh well, the feds ride on my coke sales. Throw away the key, throw me in the coal cell. United States ghetto, getting money out the state. First week strong, 100,000 at the gate. Ain't no love in the street, my dogs throw slugs when you sleep. And niggas pull a rug from your feet. South side, nigga from the heart like butt up. Dark side, one thirsty first, saw blood up. Homie got sent to the island, all cut up in the bing, no talking. Head up or shut up. Get your hustle on. Hustling hours. Go ahead, get your hustle on. Hustling hours. Get your hustle on. Hustling hours. Better get your money, you ain't touching hours. Hustle hard. Get your hustle on. Hustling hours. Go ahead, get your hustle on. Hustling hours. Hustle hard. Get your hustle on. Hustling hours. Better get your money, you ain't touching hours. All I sell is cocaine, I'm a drug dealer. Nah, for real, I'm a motherfucking drug dealer. Buy my work soft, cook that up. You need a nine straight drop, I hook that up. Streets keep calling, it's hard for me to quit. Just when I think I'm out, they need a brick. Back to the hood again, all black hood again. When I'm round, the fiends know the coke good again. My hours is from 12 to 12 and 365, 24-7, I'm selling. I get a rush just bagging that cane. Smoking Mary Jane, packing that thing. All I do is hustle, fucking 9 to 5. Start at 9, make 6 by 5. It's an all-day process, even on a Sunday. Quran on the dashboard, bring you what you ask for. Get your hustle on. Hustling hours. Go ahead, get your hustle on. Hustling hours. Get your hustle on. Hustling hours. Better get your money, you ain't touching hours. Hustle hard. Get your hustle on. Hustling hours. Go ahead, get your hustle on. Hustling hours. Hustle hard. Get your hustle on. Hustling hours. Better get your money, you ain't touching hours. Niggas got shooters, got hoes, got hammers for sale. Got coke, got weed, got grams in the scale. Got anything you need, ain't no way in hell. There's something money can't buy, even in jail. In these streets, I'm the landlord. Niggas gotta pay rent. Live on the top floor, but came from the basement. Niggas try to come at me foul, catch a flagrant. Hustle so hard, I don't know where the day went. Move work, turn bricks to bags. Get fixed for cash, even did some licks for laughs. Chicks are smashed, shelling pussy, pimp that ass. Kids with masks, demanding where you hid the stash. Get your hustle on. Hustling hours. Go ahead, get your hustle on. Hustling hours. Get your hustle on. Hustling hours. Better get your money, you ain't touching hours. Hustle hard. Get your hustle on. Hustling hours. Go ahead, get your hustle on. Hustling hours. Hustle hard. Get your hustle on. Hustling hours. Better get your money, you ain't touching hours. State muovendo la testa, state pogando, state facendo la slam dance, speriamo di sì. Noi abbiamo un altro singolo estratto da quest'album, come potete ben capire è in pieno stile Snow Goons, bello pesante, con questa cassa che ricorda un rullante a padella dei nostri cari Metallica, specialmente nell'album Saint Anger. Abbiamo questo singolo qua che si intitola The Realest, poi ce ne sono altri due fortissimi. Tra l'altro in uno dei due c'è appunto una delle prime apparizioni al di fuori dell'ASAP Mob di ASAP Ferg, non mi ricordo il titolo, mannaggia, però lo trovate alla fine della puntata. Come al solito ci sono alcune tracce che mettiamo in conclusione dopo la sigla, proprio perché sono davvero troppe. Che cosa c'è da dire su quest'album? Per una volta, visto che appunto gli artisti sono piuttosto loquaci e non rinserrati in un ostinato mutismo come tanti altri, c'è un titolo da spiegare, titolo che si chiama Wake the Fuck Up, in risposta effettivamente, come appunto dichiarato da Fredro Starr, a quello che ho detto Nas aveva intitolato un album Hip Hop is Dead, cioè l'hip hop è morto. A che cosa risponde Fredro con questo singolo qua? Penso che negli ultimi 10 anni il sound sia cambiato e sia difficile trovare un contratto per i rapper di New York, e quindi devono adeguarsi alla sonorità imperante. All'epoca era il South, poi è diventato quello che è diventato il suono trap, che quindi per vendere devono rappare su questi beat per avere un deal, un contratto anche minimo, giusto per pagarsi i conti. Poi c'è anche chi esplode davvero, però sostanzialmente uniformando questo suono South anche in una città che effettivamente non fa parte del sud degli Stati Uniti, si perde un po' l'originalità, l'integrità e quel lato dark che ha sempre caratterizzato l'hip hop di New York, poi sugli Onyx figuriamoci. Quindi che cosa è successo? Questo titolo si intitola Wake the Fuck Up, quindi è tempo di svegliarsi, cazzo, è tempo di svegliarsi, cazzo, con la merda degli Onyx. E questo pezzo si intitola The Realest. Who's the realest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the illest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the realest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the illest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the realest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the illest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the illest? It's that time we about to lift off. Let off the ratchets for metal jackets, throw your head on backwards, attack with everything, get the mech and let it ing, like bill collectors. I'm a mass murderer that killed on records with the 50 round drum filled with diddy dumb dumps. Every nigga on the run in the city that I'm from, we catch a wreck more wrecked than rush hour. You don't want niggas like us to get power. We rush cowards in the back with crushed flowers. United we stand, divided we fall. Hammers to draw, man down, man on the who's floor. Who's the realest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the illest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the realest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the illest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the realest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the illest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the realest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the illest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the illest? Trigger Louis the 13th make me feel like a king. Be wearing brass knuckles like a four-finger ring. Got goons on deck to take one for the team. Stick you for everything, nigga, even your dreams. Wanna know who the illest? Take a look in my eyes. When you wake up with nothing, don't be surprised. Rather hate you for the truth than love you for the lies. I take you to the booth, that's where everybody died. There's so much dirt, I get wet, I start dripping mud. In the hood, niggas grimy money, thicker than blood. Get murked over pennies, nickels and dubs. I'm Bogart in the game, we the illest. Who's the realest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the illest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the realest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the illest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the realest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the illest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the realest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the illest? Is it you? Yeah, yeah. Who's the illest in here? Ah yeah, pazzerelli, chi è il più vero, chi è il più malato? Sono gli Onyx, perlomeno è quello che gridavano qualche anno fa. Bisogna dire che in quelli che abbiamo percorso finora 12 anni di carriera non hanno perso un filo di smaltro nelle loro corde vocali, proprio sempre delle vocine tagliate con la motosega. Arriviamo al 2015, gli Onyx hanno pubblicato un EP di 6 tracce interamente prodotto dal produttore canadese, leggo dall'inglese, canadese Scopic. Si intitola Against All Authorities ed è un EP impegnato perché è di protesta contro la brutalità poliziesca e il pregiudizio razziale che appunto poi ha portato a Black Lives Matter e a tutte insomma le manifestazioni che ormai sono diventate note, ma sostanzialmente è un'ingiustizia che va avanti da tantissimo tempo e che quindi ha portato a varie proteste di piazza. Quindi gli Onyx hanno preso posizione, sono scesi in campo contro tutte le autorità e con questo singolo appunto omonimo che vi andiamo a presentare. Political activists like Mark Dices. We law breaking, running the stores, taking TVs and PlayStation, the slave nation. We doomworm to Bloomberg, we just Mooley's worth of Giuliani. We get no respect, they put guns in a hood. What you expect, like a pack of cigarettes, I could get me a check in the 4/5. They don't wanna go to war with rap music, what we banging at the law with. So keep your Glocks high, aim for the ceiling. Here come them villains, gotta stop police killing. So pardon me as I blast this. Fuck throwing the black fist to the cops, we target practice. This should be against the law. fuck authorities against the law. Cause niggas run away, don't trust the cops. If you're down for the cause, then cross shots, nigga. This should be against the law. Fuck authorities against the law. Cause niggas run away, don't trust the cops. If you're down for the cause, then cross shots, nigga. I said move steady, I'm getting the troops ready. Gun store robberies, the armory's heavy. All black Chevy, hood military. I start the revolution right now if you tell me. I'm a convict, believe me, you one too. We convicts can't leave unless your passport approved. Who is you? Fuck the rules, fuck the news, it's a lie. If you ready to make a move, let them two in the sky. They gon' have to call a national guard, smashing them hard. You gon' get some back to your car. Can't let these motherfuckers send me back to the yard. But if I got 100 million niggas with me, that could be hard. Sometimes you gotta pick the guns up to make them put the guns down. Enough is enough is enough. Black kids getting gunned down. What if it was your son now? The system corrupt, and when the sun down, you know that the shit gon' erupt. Yo, questo era Against All Authorities. Per chi non lo conoscesse, vi consigliamo di andarvelo a ripescare, perché è un EP di valore. È un EP che appunto dimostra una presa di posizione molto molto molto molto molto importante, proprio perché giustamente gli Onyx hanno detto sarebbe potuto succedere a chiunque di noi, perché sostanzialmente le autorità non guardavano tanto, non andavano tanto per il sottile, ma insomma c'era e c'è un accanimento totale verso tutte le persone appunto colored, come si dice in America, e questo è un fatto. Passiamo al 2017, gli Onyx fanno un album collaborativo molto interessante, sempre con un gruppo europeo, questa volta un gruppo olandese, i Dope D.O.D., per chi se li ricordasse, un gruppo che si è sempre mosso tra hip hop e dubstep con musica abbastanza sperimentale. Hanno rilasciato appunto un album che si chiama Shotguns in Hell, anche lì un titolo semplice, diretto, non bellicoso. Poi ovviamente in copertina, indovinate che cosa c'è? Un fucile a canne mozze, che è lo shotgun in inglese. Poi però in realtà loro si rifacevano al fatto che nello slang, già dai tempi di Time Cartel di Nas, quindi nel 1994, shotguns fossero sostanzialmente le nuvole di fumo che venivano sparate dai fumatori, quindi sostanzialmente indicava una stanza ricca di fumatori, che somigliava quindi per quanto riguarda il fumo prodotto all'inferno. In effetti mi ricorda un po' tutte le situazioni in cui c'è la rap caverna post, in cui fumano tutti e quindi si crea una cappa di fumo. Quindi diciamo, al di là di questa situazione, l'album è abbastanza interessante. Vabbè, non è il mio preferito, però sai, sono opinioni. Invece è bello vedere anche queste collabo USA Europa, che non è proprio una cosa scontatissima. E abbiamo scelto un singolo che si intitola Can't Hear You. I can't feel you niggas. I'ma never shed a tear for niggas. I don't care for niggas. I'ma tear them niggas. Niggas getting pissed. I'm a ladder nigga. I'm called savage nigga. On acid trip. I got half a liver. Nigga pass the liquor. I'm like master splitter. Kick your ass. Remember, get back in line or get blasted, nigga. Like that's a tat tat. Niggas get whacked like an Islam on back. Give me the strap. I'll get rid of the sap. Cap in your back. I put fear in the hearts of those trying to be clear on the cards I hold. Salute the troops, kid lock and load. Shoot to kill till they ride like dope. No truces, shoelace nooses. Push this unstable table. Leave you in the wet with the leather all red. Send them on a trip cause they better off dead. Yes, you got your head FedEx. Box on the steps of your ex address. Shot to your neck, now your leg's a mess. Bound to the chair with the wheels attached. What? I can't hear you niggas. What? I can't hear you. What? I can't hear you niggas. What? I can't hear you niggas. What? I can't hear you niggas. What? I can't hear you niggas. What? I can't hear you niggas. What? I can't hear you niggas. Sick of lunatic gun postal. I can't hear y'all, I'm antisocial. I take your empire with a pen, I wrote you. Rotisserie, history, I'll straight ghost you. 4-5 out the holster. Combat marking my target to taunt me. Got some back like John Wick bombing. Believe it, I'm leaving bullets in your colonic. It's dope and onyx. It's kinda quiet in here. Niggas better put on your riot gear. About to start a motherfucker riot in here. So turn it though, nigga, don't try it in here. So stand the fuck up. Yelling this shit, put your hands the fuck up. Life is a bitch, man the fuck up. And be full, your gun don't yell the fuck up. I'm ordinarily like this, they treat me like I'm special. When I drop shit, it's like a fucking scud missile. In the mosh pit, about to pop a blood vessel. Don't talk shit, I stage dive, come get you. I'm a shark bitch, I'm God, think get your ass for dinner, man. You think I'm old school, nigga, you'll get euthanized. Grew up a cop killer, but was born to do or die. Move the money, make it when I started making money. We're the south side, keep it, you can take it from me. You got a smart mouth, but I take you for a dummy. Calm down, I take what you can't get back from. I can't hear you niggas, what? I can't hear you niggas, what? I can't hear you niggas, what? I can't hear you niggas, what? I can't hear you. E questo era Can't Hear You. Quindi questo era Shotguns in Hell. Come potete notare, diciamo, da negli ultimi 5 anni le pubblicazioni degli Onyx si sono fatte molto più frequenti. Infatti se vi consigliamo di guardare i loro Spotify, che sono carichi di dischi nuovi, compilation, bootleg, anche quelli di Sticky Fingers e di Fredro, che parallelamente hanno fatto una bellissima carriera solista. Personalmente non sono i miei album preferiti, però li apprezzo sempre per la loro presenza, per la loro fotta, per la loro genuinità. E niente, che cosa abbiamo ancora? Abbiamo Black Rock, che è il loro settimo album, uscito nel 2018 tramite X-Ray Records. È particolare perché è un altro album prodotto in Europa, perché tutto l'album è stato prodotto da un produttore sloveno che all'epoca aveva 18 anni, Emilio Albert Cassagrande, cognome sloveno, che ne pensi Gigi? Cassagrande, proprio un cognome sloveno. Vabbè, alla fine diciamo che c'è un po' di Italia per traverso in un album degli Onyx. È comunque un album interessante, c'è anche un featuring con R.A. The Rugged Man, che vi consigliamo di andare a ripescare. Una cosa interessante riguardo il titolo è Black Rock, appunto, doveva uscire già nel 2009. Cosa è successo nel 2009? Nel 2009 è stato pubblicato un altro album che si intitolava Black Rock, da parte di un duo hip hop che perlomeno in Europa non è arrivato. Penso che, insomma, da quello che ho capito leggendo Wikipedia, che non so quanto sia autorevole, è stato un album popolare però solo negli States, e quindi successivamente a questa pubblicazione non hanno voluto, per evitare omonimie, pubblicare un album da questo titolo, e anzi sono comunque incazzati quelli di quel duo lì, anche se l'hanno pubblicato 9 anni dopo. Detto ciò, vi presentiamo questo singolo qua, che è stato uno degli estratti dall'album, è featuring Sky Zoo e si chiama I'm a Fucking Rockstar. Reclining in the black GT, they hate to see me shining. Rockstar to a rockstar, we DB9ing. World in the streets, we murdered the beats. However niggas want it like solar, so sung it. I'm blasting an Aston Martin past the margin, blowing lights down 34th Street past the garden. Cash over bitches, reputation never smiling pictures. Niggas pulling triggers till your body dropping shivers. For 6 digits, niggas can get it. Put a price on your head, like a New York fitted to get. Bitch, we all scramble for dollars. Y'all niggas don't know the style. It's only thing sweet, the candy painted in Impala. Nobody better than pull up to the club, they let them in. You fucking with a veteran. Somebody should have told him, I'm a fucking rock star. Somebody should have told him, I'm a fucking rock star. Somebody should have told him, I'm a fucking rock star. Somebody should have told him, I'm a fucking rock star. Boys, somebody should have told him, I'm a fucking rock star. Somebody should have told him, I'm a fucking rock star. Somebody should have told him, I'm a fucking rock star. Somebody should have told him, I'm a fucking rock star. I mean, somebody should have told him, flying up the float with. They talking top 10, I'm just lining up a slogan. Product of the ball heads. Like I'm a product of the low end. They interview my fans like you riding like you know them. My 999s is out the lobby from the holders. Critic talk fly, they try and find them and unload them. Bill beside the peddlers, meaning I'm still beside the peddlers. Should I just call the vibe and kept it going? I learned how to get on my murder whoever drops. From when the slam boys was whipping they burners out on the box. Like murder whoever drops. This rap shit sound like an arms race. My catalog louder than Kanye. Bitches still run up in droves. I mean, you come to the show, young and the front row sound like a pawn tape. I rap like the wind, a drought on all sides, and I'm giving out all fives. I bet that you all abide, cause somebody should've told him, I'm a fucking rock star. Somebody should've told him, I'm a fucking rock star. Somebody should've told him, I'm a fucking rock star. Somebody should've told him, I'm a fucking rock star. Boys are back. Somebody should've told him, I'm a fucking rock star. Somebody should've told him, I'm a fucking rock star. Somebody should've told him, I'm a fucking rock star. Somebody should've told him, I'm a fucking rock star. Slam boys are back. Ah yeah, I'm a fucking rockstar. Alla fine tutti i rapper vogliono diventare rockstar. In Italia abbiamo avuto Sfera Ebbasta, in America appunto gli Onyx, ma più o meno tutti, anche Run DMC si sono autoproclamati King of Rock, perché alla fine i rapper sognavano di diventare rockstar. Poi infatti sono diventate rapstar e sono diventate le nuove rockstar. Siamo arrivati all'ultimo album ufficiale degli Onyx, è stato pubblicato l'anno scorso, lo trovate tranquillamente su Spotify, ancora una volta pubblicato da Goon Music, un altro album in collaborazione con gli Snow Goons, è uscito l'anno scorso il 15 di novembre, si intitola Snow Mads, con la classica faccettina incazzata degli Onyx come copertina, album interamente prodotto dagli Snow Goons. Anche qui abbastanza collaborazioni con un altro rapper con la voce melodiosa come Bumpy Knuckles, ad esempio. Noi abbiamo scelto il featuring con i Dope D.O.D. che si intitola Ain't No Time To Rest, non c'è tempo per riposare. Ognuno di noi ha avuto periodi così in cui ha talmente tante cose da fare che non riesce a riposare. Mi raccomando che non siano periodi troppo lunghi, se no vi viene un coccolone, riguardatevi. Noi vi lanciamo la traccia, Ain't No Time To Rest. Hip-hop is in a disarray. This is for my niggas who gotta get it the pistol way. The piss of the way, or shippers up in Starlitz. Queens niggas is wild, but Brooklyn is the wildest. When niggas be robbing shit and rip you for your wallets. Yeah, I got a ghostwriter, Christopher Wallace. So get your SPI. My niggas stressed and depressed. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, my niggas stressed and depressed. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest. Thought I was dead, but I'm alive and kicking in the hood. Niggas love me like a fried chicken. Sticky fingers good, my nines be licking. And I must be getting money, my palms is itching. Cause when you win, you gotta be 99. Everything is free, 99. Get ducked off, get beat out his mind. Fuck it with sticky fingers, must be out his mind. Are you insane? It's all your fault. Get body over and over again and expect the different results. I don't play games, eat candy, smile or joke. They'll be checking and checking and checking, but they ain't getting no bump. My nigga's stressed and depressed. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, my nigga stressed and depressed. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. What? Ain't no time to rest. Shake them up, wake them from the dead. Shine them up, half a bold head. You'll break a fucking leg trying to kick it with us. I'll rip your skinny jean limbs off and piss on your Uggs. Now wake the fuck up. Your niggas suffering for sleep paralysis. I had it with them amateurs, fucking with some savages. Feel the cold clutch of the reaper around your neck. If you talk shit, what? I don't forget. Now who's next? Who's next? I'm here to take y'all with. Get them ready for the belly of the beast. We on a graveyard shift. Drove stick. What up? Just lit. What up? I don't give. No fucks. Put your middle fingers up. Put your middle fingers up and say fuck that shit. Onyx and Dope D.O.D. We fuck them up like this. Niggas looking for clout, that's all half the price. Well, you gon' see enough clouds in the afterlife. My niggas stressed and depressed. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, my niggas stressed and depressed. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. Ain't no time to rest, it's time to wake up from the dead. E questo era Ain't No Time To Rest. Questi erano gli Onyx. Presto pubblicheremo la playlist di questa puntatona. Presto vi diremo anche chi ha vinto il nostro sondaggio, che vedeva coinvolti gli EPMD e gli NWA, due grupponi. quindi chi vincerà la puntata che sarà tra due settimane lo sapremo martedì. Speriamo che vi sia piaciuta appunto la puntata con questa discografia lunga, speriamo che inviti qualcuno che appunto non li aveva mai sentiti ad approfondire, secondo me meritano, secondo noi meritano, noi amiamo particolarmente questo sound bello aggressivo, bello lanciato, che ci alcune hit sembrano anche crossover, perché sono un po' retaggio anche del punk, secondo me le suonerebbero bene in degli skate park. E che cosa dire sugli Onyx, abbiamo detto tutto. Dovevamo scegliere un gruppo che somigliasse agli Onyx in Italia, beh non è facile, potevamo scegliere i rapper che gridano ma non sono sulla stessa wave, allora abbiamo scelto un gruppo classico che però spinge e effettivamente hanno anche delle belle vocine affilate. Loro sono Virux e KO, hanno suonato qui a ZAM, da dove vi parliamo penso ormai siamo quasi a 10 volte, ogni volta la gente poga, quindi fa la slam dance, probabilmente non sanno neanche di fare la slam dance qui a ZAM, e quindi il gruppo è sicuramente più simile agli Onyx anche proprio per la foto nei live. La traccia che vi proponiamo appunto di Virux e KO di Bologna è Duke Nukem. Visto che Papa Francesco è l'anticristo, la mia banda suona molto più hardcore dei Bad Religion. No, come Six Pistol e tu stai fermo all'inizio, corri fiamme per strada come Tiziano Ferro a Kingston. Tu sei Missy Elliott, una Pussy Wagon, flussi da senior, confusi vi spiego, mi elevo di level. Conduco all'antico rimedio, levito come l'elio, tu invece sei Lady Marion, insidio, mi insedio, un assedio verso il tuo misero castello di carta. Emissario, rifletti sulle tue parole, questa è Sparta. Io non ballo il waka waka, quella stupida canzone, io ti spacco il cranio, ballo il ballo del mattone. Attenzione, giù le nuche, carico tu che nukem, scarico il caricatore. Ogni rima è un'onda energetica che stupisce Vegeta in Dragon Ball Z, mossa segreta, tecnica completa, distrutto il pianeta, scorro liscio come seta, flash livello beta, né cash né moneta, il mio rap è trash metal. Porco, Dio, Dio porco, io porto il mio e ne porto troppo, ma veramente un botto zio, mi accappotto con la Clio e se ti impari siamo pari, ti pare che vado in para sul parapendio, pare di stare tra funamboli impazziti, hard squats in city, coltelli inseriti, sibili striduli di serpenti impazziti, nella nostra fossa di cistritoli. Out, yeah, out, Virux Game, il mostro del mare, KO, DJ Tompo, Hard Squat Crew, un saluto a mio fratello Alberto Portland. Io sono uno delle Hard Squat, la crew più bastarda di tutte. Faccio hardcore, ci mancherebbe, c'ho la casa piena di blatte. Tu sei un cane a rappare, sembri parappa rapper. Giri con tipe strafatte che sembrano vacche da latte. Fanculo il rap, mi dà più problemi che altro, perciò mo me ne sbatto e metto il cuore in ogni dio porco. Quanto mi piace bestemmiare su disco, sarà che sono un povero Cristo, ma quando mi sento inorgoglisco. Non voglio morire 33 come Gesù Cri, voglio morire 43 come Sean P. Sì, qui col rap non ci guadagno un pezzo di pane, quindi se un pazzo rappare sei in più rabbia la cazzo di cane. La mia crew con la tua non si confronta, ne devi mangiare di pasta, celiaco di merda. Ti senti, ti piange addosso, ci senti, ti piscia addosso. Senti, io c'ho già i miei problemi, i tuoi non me li addosso. Non faccio rime romantiche, ho rime sudice, suicide girl con tatuaggi sulle natiche. Hard squat, ain't nothing to fuck with, ascolta ancora i Wu-Tang, chi cazzo ascolta la trap, bitch? È roba vecchia, sì, fanculo il restauro, mi dai dello school mentre ti ascolti Achille Lauro. Fanculo Achille Lauro, se l'ascolti o c'hai 12 anni oppure c'hai un serio ritardo. C'hai un ritardo, tua madre è sempre incinta. Adoro la violenza, tu rappa tranquillo educato che mamma t'ascolta. Virux ti descrive in quattro parole, si può una minchia. Sono cresciuto ascoltando caos con le bassi, mi vomita il cuore a sentire la merda con la quale cresci. E me ne fotto se mi snobbi, non è un hobby, faccio ancora musica per i miei quattro stronzi. Hell yeah, hey DJ, bring that back. Hey DJ, DJ, bring that back. Right there. E visto che fotta, per chi non la conoscesse, per chi non l'avesse sentita live, questa è Duke Nukem. Siamo al momento della curiosità, come se non avessimo droppate abbastanza, il momento preferito di Gulli ma anche di Pika, non so se anche di Gigi è il tuo momento preferito della puntata. Sempre lo è. Ok, allora abbiamo le altre due curiosità sugli Onyx, che devono essere dei discreti pazzacchioni anche nella vita, perché ad esempio Black Star non avevano tutte queste curiosità, loro sono dei tipi morigerati. Gli Onyx hanno anche la curiosità, hanno due curiosità, Fredro e Sticky Fingers, appunto i due cugini, lavoravano a un popolare barbiere, a un popolare salone di barberia nel Queens, dove tagliavano i capelli sia agli spacciatori locali sia alle rap star come ad esempio Big Daddy Kane e Kool G Rap, e hanno lavorato appunto come barbieri per un bel pezzo. Cosa è successo poi? Quando hanno sentito alla radio del negozio che veniva passata Throw Your Guns, hanno capito che ce l'avevano fatta e non si sono più presentati al negozio. Beh, bisogna dire, all'epoca avere il pezzo in radio voleva dire qualcosa, e in effetti qualcosa ha voluto dire. L'altra curiosità, che poi non è così curiosità, è semplicemente che appunto, come ho già detto in puntata, Fredro Starr e Sticky Fingers hanno fatto gli attori in tantissimi film. Uno dei più iconici probabilmente è Clockers, in cui appunto loro sono coprotagonisti degli spacciatori che stanno alle panchine. In The Panchine, direbbe qualcuno, perché effettivamente poi il personaggio di Strike, che è interpretato da Mackie Pfeiffer, che poi appunto partecipò come secondo come coprotagonista in 8 Mile, piuttosto che l'iconografia, alcune frasi e anche un fotogramma sono stati ripresi da un popolarissimo gruppo romano e italiano che sono gli Inde Panchine, che quindi parlavano della vita del clocker dello spaccio H24. Quindi sostanzialmente quella pellicola è stata di ispirazione per un gruppo che ancora oggi è molto molto molto molto ascoltato. Vi consigliamo di andarvelo a vedere, Clockers di Spike Lee. Dovete andarvelo a cercare su qualche sito di streaming, perché in televisione non lo danno manco a morire. E quindi questa era la curiosità. È il momento degli eventi, perché giustamente dobbiamo parlare anche degli eventi. Settimana prossima è il compleanno di Via Sant'Abbondio, cioè sono 6 anni dall'occupazione di questo spazio in cui è sita Radio ZM, quindi ci sarà una bella festa. Mi raccomando, non ammassatevi, portatevi la mascherina, cioè si fa una bella festa ma con le giuste distanze, perché il pericolo non è ancora passato. Ci sarà una mostra d'arte per festeggiare questo compleanno di NCLN, nuovo Comitato di Liberazione Nazionale, quindi da quello che ho capito, insomma, io sono una persona piuttosto digiuna d'arte, ma insomma ho capito che sarà una bella mostra, anche distro, quindi dovrebbe esserci il mercatino del vinile. Tra l'altro gli stessi ragazzi che hanno organizzato la mostra sono quelli che hanno fatto gli adesivi nuovi di ZAM, quindi se li avete visti, bella per voi. Vi invitiamo a venire, vi invitiamo a partecipare vivamente, vi invitiamo vivamente a partecipare, a prendere parte alla cena legale, perché comunque le spese legali, nonostante il coronavirus, ci sono arrivate un filo prima e sono anche tante. Bisogna prenotare, non si può più fare come gli altri anni, che anche se non si prenotava magari c'era il piatto in più. Adesso bisogna fare le cose secondo le regole, appunto, perché non si può riempire troppo la sala. Quindi mi raccomando, partecipate, prenotate tramite l'apposito evento Facebook dai canali del collettivo ZAM. Quindi ci sarà questo. E poi, sempre parlando di Milano Sud, domenica prossima c'è una festa alla rampa di Gratosoglio, che è un bellissimo skate park, una bellissima baul, quindi speriamo che ci sia una bella giornata per skateare. Ci sono tanti gruppi, tra cui Rap Caverna Posse, che per l'occasione, appunto, come dicevamo con Gigi, si chiamerà Ramp Caverna Posse. E quindi questi sono gli eventi della settimana di Milano Sud. Speriamo che vi siate divertiti. Presto metteremo questa puntata in podcast, presto annunceremo la prossima puntata. Vi lasciamo sulla più famosa di tutte le sigle, Pulsar Beats. Un ultimo saluto appunto ai compagni del collettivo ZAM, che sono andati a contestare acerrimamente per il ballottaggio del comune di Corsico lo spregevole Matteo Salvini. E quindi un saluto a tutti i compagni, a tutta la Milano militante, come al solito. Un saluto a Pulsar, di cui appunto usiamo sempre la sigla. Un saluto a tutti coloro che spingono il rap underground. Un saluto a Docma, un bocca al lupo per appunto la nuova vita nel sud. Un saluto a chi faceva il compleanno, quindi un saluto ad Angelo e Vea. Noi abbiamo finito e niente, alla prossima. Beh raga, votate gli NWA al sondaggio della prossima puntata. Bella.